palazzo che sembra una fortezza. Uscendo da Palazzo Re Enzo, schiviamo temporaneamente la Fontana del Nettuno per focalizzare la nostra attenzione su Palazzo d'Accursio, l'attuale municipio. La sua costruzione cominciò nel 1287, quando il Comune di Bologna acquistò un complesso di edifici di proprietà del giurista Accursio da Bagnolo per farne la sede del Consiglio degli Anziani, istituzione nata nel 1228 per affiancare il podestà nel ruolo di consiglieri. La struttura di Palazzo d'Accursio è quindi sostanzialmente quella di un conglomerato di edifici collegati tra loro. La prima cosa che si nota è la singolarità della facciata. La parte sinistra e la parte destra, infatti, hanno uno stile completamente diverso. A sinistra del portale d'entrata lo stile è di ispirazione gotica, con un porticato dagli archi a sesto acuto sostenuti da massicce colonne in pietra. La parte destra della facciata, invece, è di chiara ispirazione rinascimentale. Il motivo? Fu un incendio nel 1425 a distruggere la parte destra dell'edificio, che pochi mesi dopo venne ricostruita da Fioravante di Ridolfo, il padre di Aristotele Fioravanti, secondo i canoni estetici della sua epoca. Nel 1441 fu innalzata la torre dell'orologio. Inizialmente montava una macchina segnatempo, che nel 1773 venne sostituita dall'orologio tuttora in funzione, del diametro di ben 6 metri. Vale la pena soffermarsi su alcuni particolari della facciata. La Madonna di Piazza con Bambino, pregiatissima statua in terracotta realizzata da Niccolò dell'Arca nel 1478, era originariamente su fondale dorato e colorata, ma l'esposizione alle intemperie ne ha purtroppo rimosso lo strato di colore. Sul trionfale portale d'ingresso è posizionata la statua in bronzo del Papa bolognese Gregorio XIII, l'artefice della riforma del calendario. Una figura, la sua, che avremo modo di approfondire. A proposito di questa statua, vale la pena citare un curioso aneddoto. Prima dell'arrivo delle truppe napoleoniche, nel 1796, la cittadinanza era così preoccupata che potesse venire danneggiata, in quanto simbolo del potere papale, che effettuarono un travestimento. Gregorio XIII fu così camuffato da San Petronio, patrono della città, contro il quale gli anticlericali francesi non avrebbero osato scagliarsi. Dal capo venne tolto il triregno e sostituito con il berretto vescovile, e sulla mano destra, quella benedicente, fu posizionato il pastorale. Ma non è finita, perché per rendere il tutto più credibile, posizionarono una lapide sul timpano del portale con inciso «Divus Petronius Protector et Pater». Passata l'occupazione napoleonica, ci volle qualche decennio perché l'aspetto della statua venisse ripristinato. La lapide, tuttavia, è rimasta al suo posto. Per questo motivo, ancora oggi, molti sono convinti che la statua rappresenti San Petronio anziché Papa Gregorio XIII. Le sculture principali del patrono di Bologna presenti in città sono la statua scolpita nel 1683 da Gabriele Brunelli e collocata in Piazza Ravegnana di fronte alle due torri, e la piccola statua, appena 63 centimetri di altezza, opera giovanile di Michelangelo Buonarroti, situata nel sepolcro di San Domenico nella basilica a lui intitolata. Il portale di Palazzo d'Accursio è stato realizzato dall'architetto perugino Galeazzo Alessi, che si è occupato di scolpire anche la grande finestra a mensola posizionata a qualche metro di distanza sulla destra. Sotto il davanzale sono presenti due aquilotti in terracotta. Ebbene, è da parecchio tempo che si protrae il dibattito sulla paternità di queste due opere. Secondo alcuni, infatti, quella a sinistra sarebbe stata realizzata dal giovane Michelangelo durante la sua visita a Bologna, mentre quella a destra va attribuita a Niccolò dell'Arca. Secondo altri, non è chiaro quale dei due artisti sia l'autore dell'una o dell'altra aquila, mentre c'è chi sostiene, ancora, che si tratterebbe delle opere di un artigiano destinato a rimanere senza nome. Esiste un'ultima teoria al riguardo, ovvero che si tratti di copie, dopo che gli aquilotti originali sono andati distrutti durante una sommossa popolare ai primi del 1500. A sinistra della finestra, sullo zoccolo del muro, c'è una lunga lapide. È qui che fin dal Medioevo sono riportate le misure in uso a Bologna, in modo che tutti potessero verificarle. È così possibile valutare la lunghezza del piede bolognese, circa 38 centimetri, il braccio, il gomito e la pertica. Sono riportate anche le misure che dovevano avere tegole e mattoni. Una delle particolarità di Palazzo d'Accursio è la sua mole imponente, massiccia, che lo fa assomigliare più a una fortificazione militare che a una struttura civile. Percorrendo il suo perimetro, da Piazza Maggiore a Piazza Nettuno, si incontrano due torrioni, di cui uno è collegato alla facciata costruita da Fieravante di Ridolfo, mentre l'altro è posizionato all'angolo con via Ugo Bassi. È proprio percorrendo questa via che la struttura assume le sembianze di vera e propria fortezza, con mura robuste dotate di spioventi e merlature. Se non fosse per la fontana cinquecentesca del Laureti, la Fontana Vecchia, che ne ingentilisce l'aspetto, sembrerebbe di costeggiare le mura di un castello. L'impressione continua imboccando Piazza Roosevelt, sulla quale si affaccia il lato ovest del palazzo. Una muraglia difensiva chiusa all'estremità da due torrioni, sulla quale spicca una terza torre centrale. Questa parte del palazzo fu gravemente danneggiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ed è stata oggetto di un accurato restauro durante il dopoguerra. In pochi sanno che uno dei torrioni all'estremità, quello all'angolo con via Ugo Bassi, è stato per secoli un carcere, oltre che sede della sala torture dell'Inquisizione. Era questo il carcere del Torrone. Suggestivo è il lato sud del complesso, quello che dà su via 4 Novembre. È qui che si trovano le mura più antiche e meglio conservate dell'intera struttura. Significativa la Torre dei Lapi, che nell'Ottocento è stata rimaneggiata allo scopo di fornire alle carrozze un ingresso ai cortili del palazzo, oggi sfruttato dalle auto dei dipendenti comunali. Percorrendo via 4 Novembre, in prossimità di Piazza Maggiore, alzate lo sguardo. Incastonata nelle solide mura come un'inattesa pietra preziosa, vi apparirà la pregevole finestra in terracotta detta dell'Oleggio, dalla quale si dice il cardinale Giovanni da Oleggio, nei suoi appartamenti residenziali, si affacciava per tenere sotto controllo le attività cittadine. Autoproclamatosi signore di Bologna durante la dominazione viscontea, l'Oleggio, dal 1351 al 1360, resse la città davvero e proprio despota, vessando i cittadini con imposte spropositate, reprimendo nel sangue qualsiasi tentativo di opposizione, intraprendendo guerre fuori e dentro le mura. Fu sua l'idea di costruire un fortilizio in legno tra le due torri da cui i suoi soldati potessero dominare la città. Di lui si disse che era un uomo avaro, astuto, ambizioso, sleale e crudele, dal quale la misera Bologna doveva aspettarsi le molte calamità onde poi venne afflitta. Odiato sia dai Visconti che lo avevano inizialmente appoggiato, sia dal Papa che reclamava il possesso della città, riuscì comunque sempre a farla franca. Finì per cedere Bologna alle truppe del cardinale Egidio Albornoz, per poi defilarsi dalla città in piena notte attraverso Porta San Mamolo, scortato da ben 1300 soldati ingaggiati per guardargli la vita. Il cardinale